Città Fujiko Live Club. In studio Nevio Bencivelli. Ciao a tutti, Nevio al microfono, siamo a mercoledì 12 dicembre, no, ancora presto per quello, 12 novembre 2025, come ogni mercoledì più o meno alle 10.30 arriva Città Fujiko Live Club, naturalmente il tutto da Radio Città Fujiko in Bologna, 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica più il web con cui potete ascoltarci in tutto il mondo tramite l'apposita app che potete scaricare gratuitamente dal sito radiocittafujiko.it e ultimamente anche nelle province limitrofe per adesso con tramite il DAB che è un'altra possibilità di ascolto di altissima qualità, fra l'altro poi dovremmo essere in espansione nei prossimi mesi, ma questo è un altro discorso e ne parleremo. Città Fujiko Live Club ogni mercoledì si preoccupa di farvi ascoltare musica registrata dal vivo, musica rigorosamente ufficiale a parte qualche rarissimo caso e di ogni epoca, ma quasi di ogni genere. E Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità, anche oggi non è da meno, è una novità veramente molto molto bella per quel che mi riguarda, una delle mie band preferite in assoluto, una band che vi ho già fatto ascoltare tante volte e che il 22 gennaio prossimo sarà in città, qui a Bologna, al Locomotive Club, quindi vi raccomando per questo concerto. Sto parlando dei Dream Syndicate. È da sempre un quartetto con ogni tanto l'aggiunta ad un tastierista ed è stata attiva dal 1981 al 1989, poi c'è stato un periodo di scioglimento per dar modo al loro leader Steve Wynn, chitarra e voce, di avviare una carriera solista con molta fortuna critica, un po' meno come vendite. Poi si sono riformati nel 2012 e sono tuttora attivi, tanto che, come vi dicevo, nel gennaio prossimo saranno qui a Bologna. Ultimamente Steve Wynn si è riappropriato dei diritti dei propri album, sia suoi come solista che come Dream Syndicate, e li sta ristampando con annesso un sacco di materiale. Il loro secondo album si chiama Medicine Show, è stato pubblicato originariamente nel 1984, ma il Medicine Show 40th Anniversary Expanded Edition è stato pubblicato solamente un paio di settimane fa, tre se ricordo bene, in versione 4 CD, in un box set con un sacco di pagine, di fotografie, veramente molto interessante. Questi 4 CD hanno un sacco di canzoni dal vivo, oltre naturalmente all'album originale debitamente remixato, e sono con un sacco di cose dal vivo. La qualità sonora è abbastanza varia, nel senso che ci va dall'ottimo all'appena sufficiente, diciamo 6 meno meno come prendevo io a scuola. Il terzo disco si chiama The Road to Medicine Show, infatti è la strada per Medicine Show, l'album che vi dicevo, perché il concerto che vi propongo è stato registrato prima della pubblicazione di The Medicine Show, per cui le canzoni erano ancora in divenire. Sono le prime 8 canzoni del dischetto numero 3, è stato registrato al CBGB's di New York City il 6 ottobre del 1983. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è quello che diventerà uno dei classici della band, si chiama Burn, loro sono Dream Syndicate. For the faithful, it's called Burn. Yes, someone set fire to the field last night. Turn himself in this morning. No, I don't think you knew him, but that's not the point. Well, the cops asked why he'd done it, and they fastened up the cuffs. He looked at what he'd done and he said, oh, guess I just don't know. No, I don't know. But you can feel in your heart, feel in your soul, feel go around till you lose control. And there's just a few things that can't be told. Don't you feel it? Don't you feel it burn? Now don't you feel it burn? Yeah, there was a friend that you and I had, and there were a few things he believed in. Well, one by one he found some flaws, and now he's not so sure. No, he's not that sure. But you can feel in your heart, feel in your soul, feel it go around till you lose control. And there's just a few things that can't be told. Don't you feel it burn? Don't you feel it burn? Now don't you feel it? Around till you lose control. to feel it. Erano accreditati i Dream Syndicate come i leader in quel movimento musicale degli anni '80 che fu chiamato Paisley Underground. Come al solito queste definizioni musicali vogliono dire tutto e niente, però fu un movimento che vedeva insieme ai Dream Syndicate anche i True West, Rain Parade, le Bangles e altri, e altre band che ebbero un buon successo in quel periodo. Però non vi so spiegare esattamente cos'è il Paisley Underground. È un misto, come sempre accade, di rock, psichedelia, folk, c'è un po' di tutto come al solito, e viene fuori questo tipo di sound, questo tipo di musica. Dream Syndicate, registrati al CBGB's di New York City il 6 ottobre del 1983, Burn, il brano che ci siamo ascoltati. E oggi parleremo, ci ascolteremo brani che sono stati registrati proprio in questo locale. Si chiama CBGB's, che vuol dire Country, Bluegrass and Blues, appunto sono iniziali con Bluegrass staccato. Fu aperto da Hilly e Karen Crystal, una coppia di marito e moglie, nel 1973, un bar malfamatissimo nella Bowery di New York. La leggenda narra che un giorno David Byrne passò di lì, siccome i Talking Heads, così come i Television, così come Patti Smith, così come i Ramones erano le prime armi, lui entrò nel bar e disse: ci faresti suonare? Hilly Crystal disse: sì, basta che non vogliate un unghello. E loro cominciarono la loro carriera proprio in questo locale. Poi naturalmente arrivò gente e cominciarono ad essere pagati poco, ma pagati. Come già detto, da questo locale sono partiti fior fiore di band, di musicisti. Ce ne ascolteremo qualcuno nel corso di questa prima parte della trasmissione, però c'è un problema, cioè un problema, nel senso che di tutti i gruppi che vi ho annunciato adesso, non ci sono registrazioni dal vivo al CBGB, cioè ce ne sono ma sono rarissime. C'è uno di Patti Smith, un singolo, costa un pozzo di soldi, e quindi non ci ascolteremo quei gruppi che vi ho detto. Fra parentesi, alla fine del mese, il 26, sarà il Black Friday Record Store Day, e uscirà per la prima volta una registrazione dal CBGB dei Ramones. Ma andiamo avanti. Now there's more. Fra l'altro il locale chiuse il 15 ottobre del 2006 con un concerto del Patti Smith Group. E andiamo a iniziare dall'unica band britannica che ci ascolteremo adesso, anzi inglese per la precisione, dopo vi capirete perché. È una band tutta femminile, un quartetto che arriva da London, si chiamava Fluffy. 1994-1998 la loro breve esistenza, un solo album in studio, alcuni singoli e un live EP, che è quello che ci andremo ad ascoltare, che si chiama Five Live, perché appunto sono 5 pezzi registrati al CBGB's di New York City il 15 maggio del 1996. Il brano che ho scelto per voi è da questa band molto molto molto aggressiva, si chiama Scream, loro invece si chiamavano Fluffy. Turn away shamelessly. I turn. È da un quartetto di ragazze abbastanza incassate, britanniche, denominate Fluffy, siamo passati a un trio di ragazze altrettanto incassate che si chiamavano Babies in Toyland, tre ragazze che arrivavano da Minneapolis, sono state attive dal 1987 al 2001, poi sono riformati nel 2014 per 3 anni, poi gliel'hanno dato su pare definitivamente. Hanno avuto un buon successo con un album che si chiamava Fontanelle, che era prodotto fra l'altro da Lee Rinaldo degli Sonic Youth, e quello che ci siamo ascoltati è un brano che viene da una cosa un po' particolare, si chiama Painkillers ed è accreditato come EP. In realtà è un intero album, perché dopo 5 canzoni in studio, della durata di un quarto d'ora sì e no, arriva però un intero concerto registrato al CBGB's nell'aprile del 1992. E se l'album di successo si chiamava Fontanelle, questo si chiama Fontanellette, perché è la riproposizione appunto di quell'album registrato dal vivo, quindi alla fine arriva veramente un intero album. Bruce Vollett, il brano che ci siamo ascoltati, da questi Babies in Toyland. Giocavano in casa praticamente i Living Color, un quartetto che arriva da New York City, anche per loro 2 trans nella loro carriera, 1984-1995, più 2000 fino ad adesso. Hanno un chitarrista spettacolare, si chiama Vernon Reed, bravissimo e grandissimo veramente. Hanno avuto un buon successo negli anni 90, soprattutto grazie a una serie di video molto molto interessanti che erano in continua rotazione su MTV, ma contrariamente a molte delle band che erano in rotazione su MTV, sapevano veramente suonare. Hanno fatto 5 live album, questo si chiama Live from the CBGB's ed è stato registrato nel dicembre del 1989. Ce n'è un altro uscito dopo che si chiama CBGB's Masters, che è stato registrato nel 2005, ma qua magari quello sarà per un'altra volta, perché oggi ci andiamo ad ascoltare questo brano che è uno dei classici della produzione dei Living Color, si chiama Solos of You. Got the missionaries are useless, disunited, unfaithful. They have nothing more to keep them in a battle other than a meager wage, which is just about enough to make them want to kill for you, but not enough to make them want to die for you. Is my friend. My rifle is my friend. I clean my rifle every day. I clean my rifle every day. That's why my rifle is my friend. Ready for war. Ready for war. push it down and walk on in. Say howdy, howdy, doody, howdy, doody, hey, hey. Howdy, howdy, doody, hey, hey. Let's go, must go, must go, must go, must go, must go. 5,000 feet in closing. Target visibility 19. Closing. Target visibility 36. 3,000 feet in closing. Target visibility 79. 2,000 feet in closing. Visibility 17. 1,000 feet in closing. Visibility 74. 500 feet in closing. Visibility 0. Ready for war. Ready for war. You better be ready for war. Ready for war. Ready for war. Are you ready for war? In precedenza ci siamo ascoltati in l'unica band britannica del lotto di questa prima parte della trasmissione dedicata a registrazione effettuata al CBGB's, e questo invece è l'unico britannico, per meglio dire scozzese, dell'intera prima parte. Si chiama John Cale, anzi è del Galles, scusate, mi scuso anche con John Cale. Credo che ultimamente, dopo tantissimi anni di permanenza negli Stati Uniti, sia ritornato in Galles, ma non sono sicuro, perché lui abbandonò la propria città in Galles, appunto, per trasferirsi a New York City nel 1963, e nel 1964 formò insieme a Lou Reed i Velvet Underground, dal quale poi Lou Reed stesso lo cacciò nel 1968, e da allora è iniziata una propria carriera solista. E il brano che ci siamo ascoltati arriva dal suo primo album live, si chiama Sabotage Live. È stato registrato al CBGB's nelle sere dal 13 al 16 giugno 1979, e il brano in particolare si chiama Mercenaries, John Cale. In precedenza vi ho parlato appunto di questo movimento che si chiama Paisley Underground, dei quali Dream Syndicate sono la punta di diamante, ma anche i True West non sono da meno. Fra l'altro Russ Tolman, il leader dei True West, ha suonato con Steve Wynn prima che questi formasse appunto i Dream Syndicate, e Russ Tolman formasse i True West. Venivano da Davis, anche loro hanno due tranche nella propria carriera, iniziato nel 1981 fino all'87, poi dal 2006 ad oggi sono di nuovo insieme. Il brano che ci andiamo ad ascoltare fa parte di un triplo CD, che è un'antologia con molti pezzi dal vivo inediti, si chiama Kaleidoscope of Shadows, e contiene diversi brani registrati al CBGB's di New York City. Questo in particolare è il 7 dicembre 1993 e risponde al nome di Look Around. Yeah.

1976 venne pubblicato un doppio album che si chiama Live at CGB's, The Home of Underground Rock. Doppio long play, doppio vinile, racchiudeva alcune bands, molte delle quali cadute nel dimenticatoio, ma quella che ci siamo ascoltati invece è quella che è rimasta nella storia della musica. Si chiamavano Mink DeVille ed era la band alla quale prese il via la carriera appunto di Willie DeVille, grande personaggio che credo non abbia bisogno di presentazioni. Dirò solo che Mink DeVille, la band, fu l'house band del CBGB's per 3 anni, quindi ne videro praticamente di tutti i colori, e la prima apparizione su album, su long play, su vinile della band è appunto questa, contenuta in Live at CBGB's, The Home of Underground Rock. Sono rappresentati con 3 pezzi, c'è una versione micidiale bellissima di Cadillac Walk che però salta, sto parlando del vinile, per cui non ve l'ho potuto far ascoltare. Questa invece si chiamava Changes It Comes, la voce imberbe, oserei dire, di Willie DeVille, che arrivava dal CBGB's di New York City. Così come arriva dal CBGB's questo pezzo che ci andiamo ad ascoltare, non ci sono chitarre, un duo, cantante più tastierista elettronico, sintetizzatori a go-go. Loro si chiamavano Suicide, sono stati attivi, venivano da New York City ed erano attivi dal 1970 al 2016, anno in cui Alan Vega, il cantante, è morto. Sono stati appunto i pionieri del synth trasportati nella musica punk. Hanno fatto molti album live, però quasi tutti, ve lo confesso, con una qualità sonora veramente insufficiente, diciamo. Questo è il loro primo album, che è stato pubblicato nel dicembre del 1977, guarda caso si chiama The Suicide. È stato poi ripubblicato con 2 CD, naturalmente quello del 77 era un long play. È stato ripubblicato in 2 CD nel 1998, il secondo è interamente dal vivo e contiene 6 tracce registrate al CBGB's il 25 maggio del 1978. Il brano che vi propongo si chiama Harlem, come il famoso quartiere appunto di New York City. Mr. Producer, you got the money? A concludere questa piccola rassegna di brani registrati al CBGB's di New York City sono arrivati da Bakersfield, California, i Korn. L'album si chiama Live and Rare, comprende, come dice il titolo, registrazioni rare e dal vivo. Molte di quelle dal vivo sono registrate al CBGB's il 24 novembre del 2003. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama esattamente Right Now, loro erano appunto Korn. One story buried in my yard. I got a troubled mind. I'm going down to the medicine show. If I gotta choose between doing trouble and doing time, I'm going down to the medicine show, yeah. I've got a one-way ticket for the 806 to the outskirts of town, and I'm going down to the medicine show. I'm gonna say, hey, conductor, don't you stop until you hear that gypsy sound. I'm going down to the medicine show. Yeah, 'cause I know that it's hard to be a reasonable man when you stop finding reasons for everything, yeah. But tonight I'll get some answers, baby, oh, at the medicine show. Yes, it's at the medicine show. Gypsy girl who likes to dance and cry. When I go down to the medicine show, we're gonna lay our burden down beneath that lonesome gypsy sky. When I go down to the medicine show, We're gonna lay our burden down beneath that lonesome gypsy sky. When I go down to the medicine show, when I go down to the medicine show, when I go down to the medicine show. Seconda parte di Città Fujiko Live Club, come al solito iniziata con la novità che vi propongo quest'oggi. Si tratta di Dream Syndicate, grande band capitanata da Steve Wynn sin dal 1981, l'anno della loro formazione, e Medicine Show è il loro secondo album. È stato ripubblicato in versione 4 CD in uno splendido box set, si chiama infatti Medicine Show 4th Anniversary Expanded Edition, comprende un sacco di registrazioni dal vivo. Questa fa parte del disco numero 3, che si chiama The Road to Medicine Show, perché è stato registrato prima della pubblicazione ufficiale dell'album, ci sono le canzoni in divenire, ecco, diciamo così. Questa è proprio la title track, si chiama The Medicine, anzi senza l'articolo, si chiama semplicemente Medicine Show, ed è stato registrato al CBGB's il 6 ottobre del 1983. Came in my room on the run. It's gonna be the last time. Ma come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva una rubrica che si chiama Recorded Today, i brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni, ancora tantissime cose registrate in questo 12 novembre, e per cui il criterio di scelta è ancora una volta, come sempre, un brano per ogni decade. Run away. E negli anni 70 Emerson, Lake and Palmer erano considerati la miglior band del mondo. Forse non lo erano, ma sicuramente erano all'apice del successo, e sia di critica che di pubblico. Ricordo una curva dello stadio qui a Bologna piena di gente per un concerto appunto di Emerson, Lake and Palmer. E hanno fatto diversi album live, questo in particolare è tratto dalla serie King Biscuit Flower Hour, che ha una particolarità: è uno dei pochi che, oltre ad avere il CD, ha anche un CD-ROM nel quale ci sono tantissime belle cose che potete vedere tranquillamente inserendolo nel vostro computer, ed è, a mio avviso, almeno a mia conoscenza, l'unico combo in questo sistema. È stato registrato in diverse occasioni, in un paio di occasioni, anzi due, in particolare questo King Biscuit Flower Hour, uno dei luoghi, il Coliseum di Wheeling in West Virginia, una registrazione del 12 novembre 1977. Il brano che ci andiamo ad ascoltare non è scritto da loro, ma è scritto da un compositore americano che si chiama Aaron Copland, ed è un pezzo che si chiama Fanfare for the Common Man, Emerson, Lake and Palmer, dal 1977. Thank you. Keith Emerson alle tastiere, Greg Lake basso, chitarra e voce, e Carl Palmer alla batteria. Erano tre musicisti straordinari, ognuno di loro proveniente da gruppi precedenti, e si unirono nel 1970 e hanno avuto un grandissimo successo appunto in quella decade. Si divertivano anche a proporre brani di altri, tipo questo che ci siamo ascoltati, che come vi dicevo è un brano di Aaron Copland, un compositore di musica cosiddetta classica americana. Il brano si chiama Fanfare for the Common Man ed è stato registrato il 12 novembre del 1977. Uno di questi giorni, come si suol dire, vi proporrò quella che è la mia top 10 personale, e nella mia top 10 personale c'è sempre il brano che molti variano, però 4-5 sono abbastanza costanti, e questo brano che ci andiamo ad ascoltare adesso c'è sempre, si chiama Bad. Loro naturalmente sono U2, con una registrazione che arriva da un 12 pollici ormai tantissimi anni fa. Sono due canzoni in studio nella side B e due dal vivo nella side A. Si chiama Wide Awake in America e fu la testa di ponte per gli U2 per conquistare il mercato americano. Una delle due registrazioni è stata effettuata al National Exhibition Center di Birmingham in Gran Bretagna il 12 novembre del 1984. Questa è la splendida, splendida, splendida Bad U2. If get ahead of me, and I won't leave you behind. If you get unhappy, you got to show me a sign. Cause there's no love like lost love, and no pain like a broken heart. There's no love like you and me, and no loss like us apart. Promises, promises, only a word. And when soft is spoken, is never heard. And a heart is not a stone, and is so fragile, so fragile when alone. By my side, won't you be by my side? By my side, by my side, won't you be by my side? Above, down below, to the side. There's no use in pretending, no use in saving face. For my love is never ending, Lord, you are my saving grace. By my side, by my side. By my side, won't you be by my side? Won't you be by my side? Won't you be by my side? Won't you be by my side? Viene da Pomona, California, attivo dal 1992, Ben Harper, e in tutta questa sua lunga carriera ha avuto diverse band di accompagnamento, ha fatto parecchi album con artisti e bands diverse, e infatti lui ha fatto 5 live album nel quale c'è il suo nome, 2 con gli Innocent Criminals, la band che l'accompagna da sempre, diciamo un po' a intermittenza, perché come vi dicevo Ben Harper poi piace cambiare. Infatti un altro album live l'ha fatto con i Blunt Boys of Alabama, un altro con i Relentless 7 e un altro ancora con Charlie Musselwhite, quindi capite che gli piace cambiare il ragazzo. Qui abbiamo un singolo che è stato accreditato a Ben Harper e Innocent Criminals, e che comprende un brano in studio, Steal My Kisses, che è quello che sta andando in sottofondo, nonché 2 brani dal vivo, di cui uno, quello che ci siamo ascoltati, che si chiama By My Side, è stato registrato al Ryman Auditorium di Nashville, Tennessee, il 12 novembre del 1999. vengono invece da Louisville, Louisville anzi si dovrebbe dire, credo, in Kentucky. My Morning Jacket, un quintetto che è attivo dal 1998 e che ha un grande successo soprattutto nei concerti live, che sono fenomenali, ve lo posso assicurare perché li ho visti live a San Francisco ed è stato veramente un grandissimo concerto. E loro hanno avuto un successo prima in Europa che negli Stati Uniti, una cosa che può capitare, anzi capita parecchie volte, con un album che si chiama The Tennessee Fire e che portò appunto tanta fortuna loro qui dalle nostre parti, ma poi anche di riflesso, diciamo così, una volta tanto negli Stati Uniti. Ha fatto diversi album live, dei quali alcuni sono reperibili solamente sul loro website e sono praticamente vinili, mentre questo che ci andiamo ad ascoltare è un doppio CD che è il loro primo album live, si chiama Okonokos con la K ed è stato registrato al Filmo di San Francisco il 12 novembre 2005. Uno dei loro grandi classici, un brano che è famosissimo e che è sempre contenuto nei loro concerti con grande successo da parte di pubblico, si chiama One Big Holiday. Loro si chiamano My Morning Jacket, era il 2005, naturalmente 12 novembre. Thank you. Certo che il basso ricorda molto i Cure, ma questi erano My Morning Jacket, il brano in particolare One Big Holiday, uno dei loro successi più conosciuti, il tutto registrato al Fillmore di San Francisco il 12 novembre 2005 e contenuto in questo doppio CD che è bellissimo, che si chiama Okonokos. A concludere la trasmissione, vale a dire Città Fusicola e Club e Record Today, arrivano i fratelli Josh e Sam Teschi, titolari Josh la voce e la chitarra ritmica, diciamo così, e Sam la chitarra solista, vengono da Melbourne, Australia e sono titolari dal 2008 della premiata ditta Teschi Brothers, molto molto bravi secondo me, un soul blues moderno, chiamiamolo così. Hanno fatto 6 album, 3 in studio e 3 dal vivo, per non fare male, per non fare dei permali, e questo è il primo, che si chiama Live the Forum, registrato a Melbourne, a casa loro, il 12 novembre del 2019. Prima però vi ricordo che vi siete ascoltati Città Fusico Live Club, un paio di ore di musica dal vivo di tutti i generi, no, non tutti i generi, e di tutte, ma di tutte le epoche, e naturalmente dai 103.1 MHz in modulazione di frequenza stereofonica di Radio Città Fujiko da Bologna. Vi ringrazio per l'ascolto, vi lascio in compagnia dei Teschi Brothers appunto e del loro album registrato il 12 novembre 2019 che si chiama Live at the Forum, naturalmente nell'omonimo locale. Il pezzo è quello che conclude tutto l'album, si chiama Hold Me. Do you mind if we do one more song up here? Naturalmente, ciao a tutti da Nevio. What I'd love to do as well, I'm going to invite Harmony Burn out onto the stage to sing with us as well, ladies and gentlemen. So big hand for Harmony Burn. We played earlier on. And we're going to have a bit of a sing-along together. Let's go full acoustic on it.